di come voi. Non saranno i contenuti alla gara cambia, non saranno i soldi a farmi stare bene in cambia. Cantate i tuoi vini, mi fanno vomitare e piscio sopra i vostri eroi. Io rido quando dite che cazzo devo fare, che cosa devo essere per voi. Io non sento più ragioni, me ne prendo di canale. Odio tutti voi e quelli come voi.